Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, nella quale parleremo di edilizia sostenibile. Cominciamo con il Palazzo che Respira, che è stato inaugurato a fine febbraio a Milano e si trova all'angolo tra Piazza Duomo e Via Torino, quindi in centro storico, ed è stato ribattezzato Geox Tower. Perché? Perché ospita il più grande flagship store della Geox, la nota casa produttrice di scarpe. È in sostanza quindi il più grande negozio che batte bandiera Geox in tutto il mondo. Ma non è per la Geox e per il suo famoso motto della scarpa che respira che il palazzo è stato chiamato così, Breathing Building, cioè palazzo che respira. Sono stati il caso e la fortuna a far incontrare l'architetto che ha progettato il restauro, Dante Benini, e il fondatore e presidente della Geox, Mario Moretti Polegato. L'elemento più evidente e caratterizzante di questo building, di questo edificio, è la facciata, che dal secondo piano in su è ricoperta da 734 pannelli microforati in acciaio inox color oro, bronzo e rame. Sono pannelli in grado di muoversi, di inclinarsi, e sono proprio questi pannelli a dare l'impressione di un palazzo che respira, cioè che gonfia e sgonfia i polmoni. La Geox Tower è sostanzialmente un'evoluzione di quello che lo stesso Benini, architetto di fama internazionale, progettò una decina d'anni fa per la cosiddetta vela ecologica di Via Valtellina, sempre a Milano. Ne parlammo proprio in questa rubrica tempo fa e per questo sentirete da Benini diversi riferimenti a Via Valtellina. Ha una facciata interattiva che abbiamo già provato a sperimentare in Via Valtellina nel 2000. In vetro, in questo caso, e aveva una copertura che era in lamiera di acciaio microperforata. Abbiamo collaudato, evidentemente i segni non mangiano e quindi si ripercorrono, una microforatura che è quella che serve per i correttori ottici, per fare in maniera che quando tu hai un difetto metti questa lente ti permette di capire e identificare quel difetto. Questo vuol dire che lascia un'estroversione perfetta. E dato che noi dietro avevamo una facciata convenzionale con dei serramenti, non potevamo blindarli, quelli che erano dentro, dovevamo fare in maniera che loro potessero guardare fuori. Quindi la microforatura e questa doppia facciata che non poteva essere di vetro, poi se vuole entriamo nel dettaglio del perché non poteva essere di vetro, evidentemente ha fatto in maniera che ci fossero questi buchi che lasciavano respirare. La verità vera è che la facciata che respira è, oltre che respirare, si apre anche a pannelli completamente separati, su pannelli da 90x90. Quindi è il primo edificio, forse fra i primi edifici al mondo, fino a che io non sono smentito, i miei non hanno saputo smentirmi, e tutta gente che studia, che ha la quarta dimensione, cioè la dinamicità nello spazio. Cioè la dimensione della pittura, la dimensione della scultura, ma finché questi flap, queste foglie si muovono, e adesso capiamo anche perché si chiamano foglie, c'è questa dimensione incredibile che si muove in maniera computerizzata. Qual è il vantaggio di questo building? Che ha questo foglio di acciaio inox a 90 cm dalla facciata convenzionale, il caldo è esposto a sud-ovest, essendo esposta a sud-ovest prende il sole, prende l'irraggiamento scalda il pannello, la trasmittanza di un pannello di acciaio inox è... La conduzione è spaventosa, attraverso i microfori l'aria calda tende ad andare in alto e l'aria fredda dal basso tende a salire, quindi crea un moto, un vortice che porta tutto verso l'alto. Evidentemente, poiché l'immediato calore attraverso i buchi crea superficie radiante, è diventato l'edificio che respira. Quello che noi vediamo dalle vetrine, che sembra essere un panorama normale, in realtà è immediato, quindi da questo schermo. Sì, assolutamente sì, è immediato, e per chi lo volesse avere in maniera molto definita, all'interno del proprio spazio può permettersi di aprirlo come gli pare e avere un'estroversione normale. Il fatto che ci sia questa flessibilità, che possa essere o manuale o computerizzata, fa in maniera che le ali, le foglie che si aprono siano direttamente proporzionali all'intensità del caldo che si vuole smaltire, quindi può essere fatto con un computer attraverso una stazione meteo. Quindi è abbastanza interessante. Perché foglie? Foglie perché evidentemente essendo in Via Torino e avendo di fronte un edificio neoclassico e di fronte ancora un edificio Liberty che sta là dentro, a 30 metri dal Duomo, era con una sopraelevazione di due piani, era difficile andare a spiegare che volevamo fare un gesto trasgressivo, quantomeno autogratificante, autocelebrativo di un architetto che ha delle pretese di voler lasciare un segno in Via Torino. Allora quello che abbiamo pensato con Michele era quello di fare una scatola. La scatola non poteva essere amorfa, e dato che abbiamo immaginato che questo edificio doveva respirare, l'abbiamo immaginato come un albero. Per cui cosa avevamo immaginato? I colori dell'autunno. Siamo partiti dall'idea del respiro, quindi. Siamo partiti assolutamente dall'idea del respiro. Secondo, che è anche il titolo della nostra trasmissione, tra l'altro. Il respiro, non solo, ma siamo partiti innanzitutto dall'idea del respiro, e secondo dall'idea del non scandalo, terzo dall'idea che noi non volevamo un edificio ma un albero. Quindi cosa respira meglio di un albero? Cosa assorbe meglio di un albero il biossido di carbonio? Evidentemente un albero. Allora questo edificio che respirava doveva essere fatto di foglie. Foglie di acciaio inox hanno il colore dell'autunno, Fall Winter è la collezione dell'edificio, è Fall Winter. E a questo punto sono colori che eravamo partiti dall'ottone, che diventava color oro e diventava color rame, con i colori. Poi avevamo paura che invecchiasse in maniera talmente differenziata da creare un momento di disagio, e a Milano siamo già abituati ai graffiti, ci mancava anche scandalizzare quell'edificio. Allora abbiamo immaginato l'acciaio inox, che è la prima volta che viene applicato in questa condizione, che è fatto non verniciato ma per elettrocolore, quindi per bagno, e che ha tutte queste tonalità dell'autunno che sono veramente il range di un bosco dell'autunno. Evidentemente veniva spontaneo immaginare che se questo è dinamico, le foglie si aprono, si muovono mosse dal vento, lo vedrà questa sera, si muovono mosse dal vento, evidentemente saranno mosse in maniera precostituita o per libero arbitrio di ciascuno che si noleggia un pezzo di piano davanti alla propria finestra. Ma la realtà è che davvero questa dinamicità crea l'effetto foglia col vento. Poi dentro all'interno c'è una parete verde, le facciate sono fatte in biossido di titanio che già abbiamo sperimentato in via Valtellina, quindi effetto albero. Dovremmo essere riusciti a inventare un edificio che, oltre che essere in classe A superiore, già rappresenta di per sé un 35% di risparmio energetico e sicuramente non meno del 40% di emissioni sulla strada. Esatto, questo infatti volevo arrivare a questo punto, perché mi ricordavo che già in Valtellina era stato un punto su cui eravate stati molto attenti, quindi anche qui si prosegue su questa linea. Sì, questo è assolutamente con la tecnologia attuale. Esatto, è spaventoso, anche perché qui è acutizzato rispetto a Valtellina, perché mentre là la parete ventilata interattiva era vetro e come tale ha delle performance che sono diverse dall'acciaio, qui è acutizzato da questo, ed è acutizzato dal fatto che la tecnologia meccanica proprio, cioè per far funzionare gli impianti sia termico che di condizionamento, hanno avuto un'evoluzione tale per la quale qui è tutto ottimizzato rispetto a Valtellina. Questo vale almeno il 15% più di Valtellina come edificio, anche perché è più compatto morfologicamente. Visto da fuori è diventato un edificio molto alto, senza strafare. E se riusciamo con la mente a fare una trasposizione da Milano a New York fra la Quinta e la Madison, abbiamo capito che abbiamo fatto un piccolo pezzo di New York a Milano. Io quando l'ho conosciuta per via Valtellina, lei mi disse: è bloccata questa città, si sta muovendo forse? Adesso si sta muovendo con le nuove iniziative. Devo dire che viene fatto, io amo immaginare che le cose si facciano con, qui si fa tutto nonostante. E ogni piccolo passo in avanti prevede uno scivolone indietro di 4, e purtroppo il recupero del 4 per avere il passo in avanti dura 10 anni. Allora ogni attività nasce vecchia. Ciò nonostante, le persone che operano su Milano o Milano come identità ha delle persone talmente aggressive che nonostante tutto comunque Milano cresce. Da un'esperienza imponente come quella di Benini in via Torino, andiamo ad una più piccola e probabilmente molto più vicina a noi cittadini. A Gavirate, provincia di Varese, è stato ristrutturato con severi criteri di sostenibilità ambientale un edificio del 1928, una villetta, che è stata ribattezzata Casa Chioto e che ha ricevuto il premio all'innovazione amica dell'ambiente di Legambiente nel 2008. Ce ne parla Susanna Mammi di ANIT, Associazione Nazionale di Isolamento Termico. L'associazione sarà presente a Fa la Cosa Giusta, manifestazione in corso alla Fiera di Milano fino ad oggi, 14 marzo, dove presenterà il suo decalogo per rendere le nostre case più efficienti in 10 mosse. Molto in breve, diciamo, il processo si consta di 10 mosse. Si parte da una diagnosi energetica dove si va a visualizzare la necessità che abbiamo effettivamente della riqualificazione di un edificio. Dopodiché si passa all'isolamento dell'involucro, quindi pareti, tetto, copertura, pavimento, eccetera. E poi dopo si va anche a intervenire ovviamente sull'involucro trasparente, quindi le finestre. Indichiamoci che le finestre sono certamente un grosso problema per le dispersioni nelle case esistenti. Poi abbiamo per esempio le fonti rinnovabili, quindi il fotovoltaico, geotermia, eccetera, ed infine anche la domotica, perché una giusta gestione di un edificio avviene anche in questo modo, per cui io da lontano, quindi da remoto, dal cellulare piuttosto che da internet, posso effettivamente controllare i consumi della mia casa se non ci sono, magari non sono presente, sono in vacanza oppure voglio partire, eccetera. Quindi è importante anche questo. Quindi fatta la diagnosi, diciamo, iniziale energetica, fatti tutti gli interventi fino alla domotica, otteniamo un edificio, diciamo, che ha un isolamento termico, speriamo ottimo, molto isolamento importante. Acustico, isolamento che ci consente poi di vivere bene, perché poi questo è l'obiettivo, non è solo quello di risparmiare e di non inquinare, ma anche di vivere bene. Assolutamente, diciamo che tutto parte da sicuramente un impegno che abbiamo preso a livello ambientale, quindi a livello di emissioni con la comunità internazionale, ma anche la domanda viene proprio dal bisogno di comfort, di benessere all'interno degli edifici. Quindi alla fine della riqualificazione non solo avremo una casa che consuma meno e quindi che spende meno, ma anche una casa dove siamo più felici, se vogliamo. Ecco. Certo, perché respiriamo, perché dormiamo, perché abbiamo una serie di accorgimenti che ci consentono di stare meglio. Certo. Quando si dice che è una casa a impatto zero, cosa si intende? Lo chiedo a lei, così lo spiega da professionista. Sì, diciamo che è impatto zero, nel senso che in realtà tutti i consumi sono ripagati, se vogliamo, da una produzione di energia che avviene con i pannelli fotovoltaici. Tutto è relegato all'elettrico, quindi non c'è gas e non c'è una effettivamente produzione di emissione, ecco. Per questo è zero. Fatta questa esperienza su un edificio normale, consiglia, diciamo, a tutti di intervenire facendo almeno qualche accorgimento, cioè è possibile senza spendere una cifra folle? Allora, è possibile perché ci sono tra l'altro dei benefici anche fiscali, non dimentichiamoci il 55% per le riqualificazioni energetiche, quindi sicuramente è possibile. Oltretutto è molto interessante perché in realtà le case che attualmente in Italia rappresentano la maggioranza del parco edilizio, diciamo, del nostro paese, è molto inefficiente, quindi se vogliamo fare un piccolo calcolo, Cresme aveva fatto un calcolo di circa 26 milioni di alloggi inefficienti che non rientrano negli attuali standard europei di efficienza, quindi assolutamente va assolutamente riqualificato la nostra eredità, diciamo, di edifici. Su un grande palazzo, magari di questi delle periferie che si vedono, si può comunque intervenire, e su quali, diciamo, ambiti esatti si può intervenire meglio? Sì, si può intervenire per esempio con un cappotto termico. Questo è sicuramente un intervento efficiente che si può fare su una grossa, diciamo, su un grosso edificio che non è in questo caso una monofamiliare. Diciamo che una riqualificazione di questo tipo, quindi piuttosto spinta, potrebbe essere un modo per dei grossi edifici per dare un esempio virtuoso della riqualificazione, per cui perché no non partire dagli edifici pubblici, quindi dai comuni, dalle scuole. Questo potrebbe essere anche educativo, formativo per la cittadinanza, per dire attenzione, guardate, lo possiamo fare, lo potete fare anche voi, ecco. Casa Chioto è anche visitabile dal vivo, e per chi vuole prenotarsi c'è il sito internet www.casachioto.eu. Lo ricordiamo, è a Gavirate, provincia di Varese. Per questa puntata di Respiro invece è tutto. Ci potete scrivere a respiro@radio24.it e riascoltare sul nostro sito radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e ovviamente un buon pomeriggio.